Covid-19, questo non è un virus per donne. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. The pandemic is having devastating social and economic consequences for women and girls. Women are experiencing much of the pandemic devastating impacts more than anything else. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova settimana in compagnia di Nessun Luogo Lontano, con me, Giampaolo Musumeci, ma con tutta la squadra di Nessun Luogo: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza Danilo Ditrani e in console ritroviamo Peter Bescapè. 349-238-6666 per domande e commenti, per SMS e WhatsApp, ma anche Facebook. La pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Seguiteci e cliccate mi piace se questo programma vi interessa, vi intriga. C'è anche Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account, che è Giampaz. Anche lì potete commentare e dire la vostra. Su quale tema? In queste ultime settimane abbiamo spesso raccontato del coronavirus, soprattutto all'estero, magari a volte in quadranti dimenticati normalmente dai grandi media. Ecco, lo abbiamo spesso trattato come acceleratore di crisi, a volte politiche, a volte economiche, o come faro illuminante che va a sottolineare le debolezze di alcuni sistemi. Altrettanto spesso ci siamo occupati delle categorie più vulnerabili, i migranti per esempio, la popolazione carceraria. Ecco, oggi è venuto il momento di accendere i riflettori su una situazione che è sotto gli occhi di tutti, ma duole ammetterlo, ancora una volta nel 2020 c'è troppa disuguaglianza fra uomini e donne e il Covid-19 non fa assolutamente bene. Su questo voglio sentire la vostra, 349-238-6666, ma la prima cosa da fare, Peter, come ogni lunedì, ogni giorno, andiamo a sfogliare i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta con un freddo numero che certo non restituisce la drammaticità dell'evento in Egitto. Il numero è 480, questo è il numero del caso giudiziario, è il numero di Shadi Abash, 22enne egiziano, dovrei dire questo era il numero. Sì, perché Shadi Abash è morto sabato nel complesso carcerario di Tora, periferia sud-est del Cairo. È la stessa prigione dove è detenuto lo studente egiziano che aveva studiato anche all'Università di Bologna, Patrick Zaki. Shadi era in custodia cautelare dal marzo del 2018, l'accusa era propaganda sovversiva su Facebook, dopo che aveva diretto un videoclip musicale in cui il cantante Rami Essam, che è un esule all'estero, faceva satira sul presidente Abdel Fattah al-Sisi. Secondo fonti interne al carcere, il ragazzo aveva iniziato a accusare forti dolori allo stomaco prima di morire. Il limite per la detenzione, badate bene, era da tempo scaduto, ormai da 2 mesi. È possibile che il ragazzo abbia ingerito del detersivo, forse come gesto dimostrativo, come gesto di protesta. La notizia della morte è arrivata dal suo avvocato e il carcere di Tora oggi non ha né confermato né smentito il decesso del giovane. Commentiamo questa ennesima drammatica notizia che arriva dall'Egitto con Alessia Melcangi, insegna storia contemporanea, esperta in Nord Africa e Medio Oriente, Università Sapienza di Roma. Melcangi, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno. Purtroppo, Alessia Melcangi, quando parliamo di Egitto, duole ammetterlo, ma torniamo sempre sullo stesso punto: arresti arbitrari, morti sospette in carcere, e su tutto campeggia questa struttura penitenziaria, la stessa dove è anche rinchiuso Patrick Zaki. Che cosa potrebbe far cambiare, dopo l'ennesimo tragico capitolo, qualcosa al regime di Al-Sisi nel allentare le maglie di questa repressione totale sui diritti d'espressione e diritti individuali, se qualcosa lo può fare? Beh, la situazione in Egitto continua a essere drammatica, parliamo di 60.000 persone in carcere tra oppositori politici e attivisti sociali che si trovano appunto dentro queste strutture assolutamente sovraffollate e spesso in attesa di giudizio, un'attesa molto lunga. Questi sono appunto i dati che vengono riportati da Human Rights Watch. La situazione sembra non poter cambiare, ma anzi aggravarsi adesso anche con quello che è il nuovo problema che tutto il mondo sta affrontando e quindi anche i paesi del Nord Africa, ossia la diffusione del Covid. Sono proprio recenti le manifestazioni di alcuni parenti dei ragazzi che si trovano dentro il carcere, che chiedono l'immediata scarcerazione perché temono per la loro vita, viste le condizioni già molto gravi che si trovano in questi luoghi di tortura, condizioni igieniche, condizioni alimentari, ma anche legate alle cure stesse date in taluni casi, e pensano che questo, con la diffusione del virus, si possa soltanto aggravare. Quindi la morte di questo ragazzo arriva soltanto come ennesimo evento. Ricordiamoci che nel carcere di Tora è morto, è il carcere dove stava chiuso Mohamed Morsi, sì, il rappresentante della Fratellanza Musulmana, morto nel giugno dell'anno scorso. Sì. Quindi è difficile poter immaginare una situazione che possa cambiare, soprattutto in questa fase nel quale il governo si trova assolutamente sotto pressione per la diffusione del Covid e anche a rischio di grossa crisi economica oltre che sanitaria. Sì, grazie mille. Alessia Melcangi, lo ricordo, insegna storia contemporanea del Medio Oriente, esperta in Nord Africa, di Egitto soprattutto, Università Sapienza di Roma. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata, grazie. Poi nel lungo weekend si è dissipato quello che è il giallo che arriva dalla Corea del Nord. 21 giorni di illazioni, lucubrazioni in cui i più attenti analisti si sono prodotti in ogni sorta di scenario. Noi stessi abbiamo parlato lungamente per esempio della sorella di Kim Jong-un, che sta risalendo con prepotenza i gradini della scala gerarchica in Corea del Nord. Perché? Perché si diceva che Kim Jong-un, dopo una delicata operazione cardiaca, fosse in fin di vita, qualcuno lo dava in coma, qualcun altro addirittura deceduto. Sono circolate foto di ogni risma, di ogni sorta, anche dei falsi evidentemente. Ebbene, come nella migliore delle tradizioni di un qualsiasi regime autoritario e particolarmente opaco come quello nordcoreano, Kim Jong-un è riemerso. È riemerso e l'ha fatto il 1° maggio con una serie di fotografie, 21 fotografie. Verrebbe da chiedersi se il numero è casuale o se i suoi strateghi dell'immagine abbiano deciso di collocare 21 immagini proprio per i 21 giorni di assenza. Le immagini, dicevo, sono state pubblicate dal Rodong Sinmun, che è il quotidiano di regime, mentre Kim Jong-un inaugura una fabbrica di fertilizzanti, solito sorriso sulle labbra. Ciononostante vi sono e continuano a perpetrarsi molte perplessità su quella che è la salute del leader massimo, e qualcuna attenzione anche sull'autenticità di queste immagini. NK News, che è un centro di analisi indipendente, ha studiato anche il filmato che è andato in onda alla TV di Stato, e poi è stato fatto un fermo immagine nel quale si noterebbe sul polso destro del leader una macchiolina rossa, una macchiolina sospetta che potrebbe essere l'indizio, il segnale di un'iniezione, un prelievo di sangue, un qualche trattamento clinico. E poi, sempre analizzando il video, si vede che la gamba sinistra del leader non ha la stessa mobilità della gamba destra. Poi in altri momenti più lunghi del filmato lo si vede seduto su una di quelle macchinette elettriche che si usano nei campi da golf, usate peraltro per la prima volta nel 2014, dove quando all'epoca si era fatto operare alla caviglia. Sono tante le ipotesi che si possono avanzare evidentemente. Certo, la salute di Kim Jong-un è legata anche allo suo stato fisico, lo sapete, pesa almeno 130-135 kg, è alto 1,70, fuma tantissimo, non è esattamente una persona che bada particolarmente evidentemente al suo stato di salute. Ricorderete anche quella notizia che era stata confermata di un volo di medici cinesi che si sarebbe recato da Pechino appunto a Pyongyang. Insomma, per il momento il leader massimo si è fatto rivedere, vedremo se riprenderà anche il braccio di ferro con gli Stati Uniti. Ma nel frattempo, prima di chiudere questo capitolo nei nostri dossier internazionali, vi ricordo che poche ore fa, ieri mattina, le truppe nordcoreane hanno sparato diversi proiettili contro le truppe della Corea del Sud. Pare sia stato un errore da parte delle truppe di Pyongyang, lì sul 38esimo parallelo. L'esercito di Seul ha risposto con due colpi, non vi sono state vittime. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ve ne darò conto, ce n'è uno che in particolare va a stigmatizzare, definendo deprecabile l'atteggiamento dell'Egitto, ma ripeto, fra pochissimo vi darò conto dei vostri messaggi. Intanto continua quello che è il fuoco di fila contro la Cina da parte dell'amministrazione statunitense. Il coronavirus arriva dal laboratorio di Wuhan, ricorderete l'ipotesi era stata rilanciata più volte da Donald Trump. smentita dall'OMS, smentita da Pechino. Ieri è subentrato il peso massimo dell'amministrazione statunitense, cioè Mike Pompeo, perché secondo lo stesso Pompeo sarebbe proprio l'Istituto di Virologia della città cinese l'epicentro della pandemia mondiale, origine di tutto, e non il mercato animale di cui si è tanto parlato. In una intervista all'ABC il segretario di Stato ha parlato di enormi prove, così ha detto, a disposizione dell'intelligenza statunitense. Sosteniamo che il virus si è originato lì. La Cina ha agito da regime autoritario, ha nascosto e disinformato. Pompeo, tuttavia, ha smentito che il virus sia stato creato, quindi sostanzialmente si tratterebbe di un errore, una fuga, tra virgolette, poi nascosta. Peraltro c'è un rapporto degli 007 della cosiddetta Five Eyes, cioè la coalizione dell'intelligence americana, inglese, canadese, neozelandese e australiana, nella quale si descrivono minuziosamente i tentativi iniziali del regime di minimizzare il virus, con la presunta sparizione anche di molti testimoni. In buona sostanza, all'interno dell'amministrazione statunitense soprattutto, si farebbe sempre più largo la tesi che sarebbe una formidabile arma politica, per cui la Cina è responsabile di quello che sta accadendo, c'è stato dolo nel nasconderla e in qualche modo Pechino dovrà pagare. E poi vi porto in Venezuela e lo faccio con le parole di Javier Nieto Quintero, che annuncia l'Operación Gedeón. Sentite. El objetivo de estas palabras es primero aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación de que es real y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en este momento por la libertad de nuestra patria y de nuestros presos políticos. Così in un video l'ex generale della Guardia Nazionale Venezuelana, Javier Nieto Quintero, annuncia questa operazione, sostanzialmente un'infiltrazione attraverso mare, terra e aria dalla Colombia in territorio venezuelano. Lo stesso governo di Caracas, lo stesso Maduro, ieri aveva annunciato di aver sventato un'incursione definita da mercenari terroristi che hanno cercato di entrare nel paese su alcuni motoscafi. 8 militanti sarebbero morti negli scontri che ne sono seguiti. In particolare, in un discorso sempre televisivo, il ministro degli interni Nestor Reverol ha dichiarato che il gruppo sarebbe sbarcato domenica mattina su una spiaggia nella città portuale di La Guaira. Siamo a 30 km da Caracas, con l'obiettivo di commettere atti terroristici nel paese. In realtà, nel video che avete sentito, che è stato pubblicato sui social nelle ore concomitanti a questa tentata operazione militare, l'ex alto ufficiale della Guardia venezuelana chiamava a raccolta l'esercito per poter spodestare Maduro. Si sono sollevate una serie di voci anche molto critiche rispetto alla veridicità di questa operazione, e in particolare Juan Guaidó, il grande antagonista di Nicolás Maduro, lo ha definito una montatura per sviare l'attenzione dai veri problemi del Venezuela, che sono, secondo Guaidó, Maduro stesso, la mancata gestione della crisi economica, la mancata gestione del Covid-19. Questi i nostri dossier internazionali, un po' di messaggi, qualcuno torna sulla vicenda, il braccio di ferro, tutto fatto di intelligence e leve politiche. Sam, sarà che gli USA danno la colpa alla Cina come a Saddam, accusandolo di avere armi chimiche? Qualcuno definisce, tornando indietro al dossier egiziano, deprecabile l'atteggiamento dell'Egitto. Non dimentichiamo come è finita la Libia, l'Iraq senza Gheddafi e Saddam. Forse stavano meglio quando stavano peggio, come Libertà. Così Claudio, che sostanzialmente inquadra anche il regime di Al-Sisi in che cosa? In quella celebrazione, in quella esistenza degli uomini forti che per anni, da Gheddafi a Saddam, ma non solo, anche Ben Ali in Tunisia, hanno tenuto a bada le varie pulsioni, sacrificando poi tante libertà civili individuali nel nome di che cosa? Di una stabilità politica. E su questo, se, come dire, con un atteggiamento estremamente laico e distaccato, probabilmente è vero, ma a farne le spese sono tanti attivisti egiziani. E ricordo che a farne le spese è stato anche un cittadino italiano, che è Giulio Regeni. Detto ciò, Peter Bescapè, abbiamo finito di sfogliare i nostri dossier internazionali. Apriamo la prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Il 2020, con la ricorrenza del 25esimo anniversario della piattaforma d'azione firmata dall'ONU a Pechino per ridurre le disparità tra i sessi, avrebbe dovuto essere un anno di celebrazione per l'eguaglianza tra i generi. Invece, a causa dell'epidemia di Covid-19, rischia di essere un anno di ritorno al passato, in cui molti dei traguardi raggiunti finora potrebbero essere spazzati via. A lanciare l'allarme sono le stesse Nazioni Unite, nel policy brief pubblicato ad aprile. Secondo Nala Vali, senior gender executive del segretario generale dell'ONU, l'epidemia sta allargando tutte le disuguaglianze già presenti. Il Covid-19, prima di tutto, sta danneggiando le donne sul piano economico. Secondo uno studio coordinato da Michel Tertilt, docente di economia all'Università di Mannheim, in Germania, il virus sta avendo un impatto insolito, diverso rispetto alle altre recessioni. In una recessione ordinaria, gli uomini subiscono di più la disoccupazione rispetto alle donne, perché gli uomini sono maggiormente occupati in settori come la manifattura o l'edilizia, industrie più collegate ai cicli economici, mentre le donne dominano in settori anticiclici come l'istruzione o la salute. L'epidemia di Covid-19, tuttavia, sta ristrutturando il lavoro in settori critici e settori non critici. Ed ecco che solo il 17% delle donne lavora in un settore definito critico e quindi di maggiore rilevanza durante la crisi, rispetto al 24% degli uomini. Questa differenza si sta già facendo sentire, ad esempio, negli Stati Uniti, dove in proporzione finora le donne sono state colpite dalla disoccupazione quasi l'1% in più rispetto agli uomini. Ma non si tratta solo di programmi per il lavoro femminile sospesi in paesi in via di sviluppo e di minor accesso alle occupazioni critiche. I dati ONU mostrano anche uno spaventoso aumento della violenza di genere. Secondo le statistiche delle Nazioni Unite, nei primi mesi dell'epidemia, le violenze domestiche contro le donne hanno registrato un 25% dei casi dichiarati. E così nel 2020, a 25 anni dalla piattaforma d'azione firmata dall'ONU a Pechino, proprio per ridurre la disparità tra i sessi dopo un lavoro che non sempre ha funzionato evidentemente, accade che spunta il Covid-19, grande acceleratore di crisi e grande faro che va a illuminare, a sottolineare, a volte in alcuni casi a stressare quelle che sono le disuguaglianze già presenti. Lo abbiamo detto tante volte in queste puntate, a nessun luogo lontano, sono le categorie più vulnerabili, quelle che stanno più soffrendo. Tra queste, ai noi, duole constatare che ci sono ancora una volta, e siamo nel 2020, le donne. Un po' l'avete sentito, il tipo di lavori che fanno, già molto spesso gli stipendi non sono assolutamente parificati. In alcuni casi, in alcuni quadranti del mondo, l'esperienza, e sto pensando alle epidemie di Ebola e di Zika, ci hanno consegnato degli effetti devastanti all'interno dei nuclei familiari, costretti molto spesso in pochi metri quadri alla convivenza. E se la violenza di genere, la violenza degli uomini sulle donne in alcuni paesi era già un problema, ecco, immaginate dopo una quarantena a che punto si possa arrivare. Peraltro da tanti paesi arrivano un calo delle denunce, per esempio delle violenze domestiche, e questo perché? Perché la donna, senza voler generalizzare, ha magari più timore a denunciare il partner o il convivente nel momento in cui poi è costretta dal Covid-19 a stare in casa con lui. Non pensate però, ed è una piccola avvertenza di metodo, che in questa puntata di Nessun Luogo Lontano viaggeremo soltanto in paesi, in quadranti, in settori del mondo dove è più facile forse immaginare quello che accade, magari alcuni paesi poveri dell'America Latina o dell'Africa subsahariana. Staremo tra New York e Londra perché anche l'Occidente non è al riparo da queste che sono gli nefasti effetti collaterali del Covid-19. Partiamo da Londra, e lo facciamo andando appunto nel Regno Unito con la voce di Mary Ann Stevenson, che dirige il Women's Budget Group, è un'associazione inglese che si occupa di promuovere la parità di genere. Ilaria Sesana l'ha raggiunto e vi do questa piccola notazione di colore, se preferite. Mary Ann aveva appena finito una telefonata di lavoro, aveva una teleconferenza successivamente e nel frattempo evidentemente stava aiutando i figli con i compiti. Perché l'epidemia di coronavirus aumenta le diseguaglianze tra uomini e donne? Sentite la voce di Mary Ann Stevenson. Obviously in terms of health, the pandemic has had a more severe impact on men in that we're seeing more men In termini di conseguenze sulla salute, l'impatto del coronavirus è stato molto maggiore per gli uomini, che hanno un tasso di mortalità più elevato e si ammalano più gravemente. Ma le donne hanno maggiori possibilità di essere impiegate in settori che hanno dovuto chiudere, come la vendita al dettaglio, bar e ristoranti. Inoltre, le donne sono molto presenti in settori che vengono considerati fondamentali in questo periodo e che sono rimasti aperti, come l'assistenza sanitaria e sociale o i supermercati. Il tasso di povertà delle donne è più elevato, quindi hanno maggiori difficoltà a gestire l'improvvisa mancanza di un reddito. Nel Regno Unito abbiamo un meccanismo per cui se un lavoratore viene messo in aspettativa, il governo paga l'80% dello stipendio. Ma se ricevi il salario minimo, come è più probabile che avvenga per le donne, ricevi l'80% del salario minimo. Infine, una ricerca dell'Università di Cambridge ha mostrato che con la chiusura delle scuole e degli asili, le donne dedicano più tempo alla cura dei figli e ad aiutarli negli esercizi per la scuola rispetto agli uomini. Tutto questo succede perché ci sono diseguaglianze preesistenti rispetto agli stipendi e al lavoro di cura, che sono stati aggravati perché il lavoro di cura è aumentato mentre gli stipendi si sono abbassati. And pay has gone down, people's pay has been hit. Così Marianne Stevenson dirige il Women's Budget Group, associazione inglese che si occupa proprio di promuovere la parità di genere. Secondo gli studi di questa organizzazione inglese, nel Regno Unito le donne sono la maggioranza dei lavoratori con la più alta esposizione al Covid-19, dei 3.200.000 lavoratori che svolgono ruoli ad alto rischio, pensate il 77% sono donne, che rischiano di più e allo stesso tempo sono pagate meno. Più di 1 milione di questi lavoratori ha stipendi più bassi del 60% dei salari medi e il 98% sono donne. Dalla voce di Marianne Stevenson del Women's Budget Group alla vostra voce che arriva al 349-238-6666 sotto forma di messaggi, di commenti. Un'ascoltatrice: che tristezza ripensare alle speranze di inizio emergenza sanitaria quando alcuni pensatori ipotizzavano leadership femminili a causa della maggiore incidenza del coronavirus sul genere maschile. Di necessità virtù, verrebbe da dire, ma non è questo il punto. È chiaro che c'è bisogno di un paradigma culturale che in alcuni paesi evidentemente sta funzionando addirittura meno di altri. Quest'oggi, in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, raccontiamo il Covid-19 come un virus certamente non per donne. Se è vero che la mortalità maschile è più alta, tra gli effetti collaterali a subire le conseguenze sono certamente le donne, non soltanto nei paesi più vulnerabili e più poveri, ma anche nell'Occidente. Un Occidente che fa fatica a cambiare il proprio paradigma culturale e sociale. La ripresa delle scuole, per esempio, che va ovviamente a impattare molto più sulle donne che sugli uomini, le violenze di genere, appunto, le disparità di trattamento dal punto di vista economico. Con quali conseguenze? Queste le considerazioni, le riflessioni che proviamo a fare in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Torniamo con la voce di Marianne Stevenson, Women's Budget Group, da Londra. Qual è l'impatto che il Covid-19 sta avendo sulle condizioni di lavoro delle donne quotidianamente? Sentite ancora. So we've seen research come out. Gli ultimi dati ci dicono che nel Regno Unito circa il 17% delle donne ha perso il lavoro nelle ultime settimane, contro il 13% degli uomini. Inoltre, le donne sono più frequentemente impiegate con contratti a 0 ore, in cui hai un rapporto di lavoro, ma non c'è un numero minimo di ore garantito. Il governo ha deciso che anche questi lavoratori possono ricevere l'80% dello stipendio medio percepito in precedenza. Ma per molti datori di lavoro è più conveniente non assegnare dei turni ai dipendenti piuttosto che metterli in aspettativa. Quindi, se lavori in un bar o in un ristorante e hai uno di questi contratti a 0 ore, più che metterti in aspettativa, il tuo datore di lavoro tende a non assegnarti alcun turno. Ed è più probabile che questo colpisca le donne perché è più frequente che abbiano questo tipo di contratti. Le donne sono state colpite più duramente perché fanno più fatica a gestire gli orari di lavoro da casa per chi ha questa opportunità con la cura dei figli. A causa della tradizionale divisione dei ruoli, le donne si occupano di più della cura dei figli anche quando hanno un impiego fuori casa. E quando entrambi i coniugi lavorano da casa, sono le donne a prendersi maggiormente cura dei figli. E questo rende più difficile per loro occuparsi al tempo stesso anche del lavoro d'ufficio. L'associazione inglese Working Families ha evidenziato che in alcuni settori i datori di lavoro non hanno permesso alle donne di lavorare da casa perché pensano che non sarebbero riuscite a lavorare, dovendo occuparsi anche dei figli. Because of concern that they wouldn't actually be doing work, that they'd be looking after children. Spietato e al tempo stesso preoccupante il commento di Marianne Stevenson, dirige il Women's Budget Group. Adesso una piccola pausa, sentiamo come vanno le borse e poi proseguiamo in questo video. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Come al solito ormai ultimamente resumiamo anche alcuni manifesti musicali in cui si è tanto lottato per la parità di genere, il genere appunto che state ascoltando, e già qualche ascoltatore lo vedo, il 349-238-6666 apprezza, ma non è un appiccichino, non è un francobollo quello che stiamo mettendo, perché lo sapete benissimo che vi sono alcuni anche settori della produzione culturale, musicale, artistica mondiale che sono stati totalmente appannaggio degli uomini. Il paradigma, dicevamo all'inizio di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, di questo discuteremo, ma fatemi tornare a Londra con la voce di Marianne Stevenson, dirige il Women's Budget Group, lotta da anni per la parità di genere. E molti studi mostrano che il Covid-19 sostanzialmente aumenta le ore di lavoro non retribuito. Che conseguenze può avere nel lungo termine, soprattutto sulle donne? Sentite. Well, longer term, there is a real issue. Al momento, molte attività riescono a sopravvivere solo grazie al contributo del governo per pagare gli stipendi. Quando questo piano di aiuti finirà, ci saranno attività che non riusciranno a ripartire, altre che dovranno licenziare dei dipendenti. E c'è la concreta preoccupazione che le prime a essere licenziate saranno le donne con figli piccoli, perché devono conciliare il lavoro con la cura dei figli, perché sono state meno produttive durante l'epidemia o perché il datore di lavoro pensa che lavoreranno meno in futuro. Il governo ha annunciato la riapertura delle scuole per i bambini degli ultimi anni della scuola primaria tra i 10 e gli 11 anni, che dovrebbero tornare a scuola dal 1 giugno. Ma ci sono molti altri bambini che non potranno tornare a scuola e non sappiamo quando riapriranno gli asili, perché ovviamente è impossibile far rispettare le norme di distanziamento sociale a dei bambini così piccoli. Non sappiamo se gli asili riapriranno e con quale capienza. Così questa pressione ricadrà nuovamente sulle donne. Il lavoro domestico rappresenta il punto centrale della diseguaglianza femminile sul posto di lavoro. Già prima dell'epidemia di coronavirus, dalle nostre ricerche era emerso che le donne svolgono il 60% in più di lavoro domestico non retribuito rispetto agli uomini e di conseguenza guadagnano in media il 43% in meno. Questo dipende in parte dal divario retributivo, ovvero quanto sono pagate per ora, ma dipende in parte anche dal divario di reddito, perché lavorano meno ore rispetto agli uomini e hanno quindi maggiori probabilità di essere povere. So Questa è la voce di Marianne Stevenson, Women's Budget Group. Fatemi dare il benvenuto a Nessun Luogo Lontano anche a Barbara Poggio, professoressa di sociologia all'Università di Trento ed è anche prorettrice alle politiche di equità e diversità dello stesso Ateneo. Professoressa Poggio, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, grazie. Allora, professoressa, abbiamo fatto un'introduzione in cui abbiamo avvertito i nostri ascoltatrici e ascoltatori non ci saremmo occupati di quadranti del cosiddetto terzo mondo, paesi in via di sviluppo, ma anche dell'Occidente, da Londra a New York. Ecco, ci sono società che soffrono maggiormente la disuguaglianza di genere, ci sono luoghi in cui anche l'uomo è più refrattario ad accettare certi stimoli, secondo lei? Ma sì, in generale direi tutte le società che hanno modelli sociali o familiari più tradizionali, quei paesi, possono essere i paesi poveri, l'ho citato anche prima, ma sì. I paesi meno avanzati, tutti quei paesi in cui è più rigida la divisione dei ruoli di genere, perché la cosa che si nota è che il coronavirus, come d'altra parte ogni crisi, rappresenta proprio una cartina al tornasole, quindi laddove questi problemi già c'erano, scoppiano di fatto, diventano particolarmente evidenti. E anche questa emergenza fa appunto emergere contraddizioni squilibri che già c'erano, e se pensiamo all'Europa, paesi, anche l'Italia, insomma, ma la Grecia, insomma, paesi, sì. quelli mediterranei, dove i livelli di occupazione femminili sono più bassi, dove la responsabilità di cura è maggiormente sulle famiglie, che poi vuol dire sulle spalle delle donne, sì. dove i servizi pubblici per i bambini o per le persone autosufficienti sono meno diffusi, questi sono i primi contesti in cui maggiormente poi emergono le criticità, oppure possono essere quei paesi che hanno governi autoritari o conservatori come l'Ungheria o insomma la Polonia, in cui si stava tornando indietro rispetto. Eh sì, peraltro in Polonia abbiamo visto anche le battaglie sull'aborto potrebbero essere vanificate nel giro di poche settimane. Perché si usa la crisi proprio per mettere in discussione poi questi diritti. Certo, la voce che state ascoltando è quella di Barbara Poggio, sociologa, Università di Trento, prorettrice alle politiche di equità e diversità proprio della stessa università, e come si suol dire non soltanto lavora sul tema, lo studio, lo analizza, ma evidentemente lo vive anch'ella in prima persona, e tante ascoltatrici al 349-238-6666 ma anche sui social fanno appelli accorati: non fatevi fregare dallo smart working, così Lidia, anche il lavoro da remoto in futuro penalizzerà le donne. In qualche modo sto cercando di sintetizzare quelli che sono tanti messaggi che si uniscono in questo timore, in questa paura. Però professoressa Poggio, con lei mettiamo un po' il grand'angolo, per così dire, come amiamo dire noi. Vi sono dei casi virtuosi? Lei si sta occupando proprio dell'impatto del Covid-19, molto in Italia evidentemente, ma con uno sguardo anche più allargato al resto del mondo e all'Europa. Ci sono dei casi esemplari, virtuosi, che suggeriscono delle buone pratiche? Li troviamo appunto in quei paesi, penso prevalentemente ai paesi del nord Europa, ma non solo, anche la Nuova Zelanda, per esempio, ci sono dei paesi che stanno facendo cose interessanti, e lo sono soprattutto quelli che erano già virtuosi prima, ed è interessante come numerose di queste realtà sono tra l'altro guidate da premier donne. Anche prima sentivo un intervento che faceva riferimento a questo, sì. Questo non significa che le donne siano di per sé meglio o peggio, ma che i paesi, e sono pochissimi nel mondo, sono circa 5%, che hanno donne premier, sono paesi che hanno già probabilmente una sensibilità e la possibilità che le donne arrivino a occupare queste posizioni. E diciamo sì, le buone prassi ce ne sono. Forse si potrebbe richiamare il tema della scuola, che era un punto che veniva anche citato nell'intervista, nella parte conclusiva, sì. La riapertura delle scuole in condizioni di sicurezza, sia naturalmente tenendo presente appunto le criticità che possono essere, ma è uno strumento che questi paesi, è una soluzione, una prospettiva, una strategia che questi paesi stanno attivando, e ci sono molti casi. O anche prima di chiudere in Germania, per esempio, prima di chiudere le scuole, avevano cercato di capire quali potevano essere i problemi delle famiglie, no? Sì. In Svizzera, sì. I figli di chi lavorava nei servizi di pubblica utilità hanno potuto continuare ad andare a scuola in situazione protette. In Finlandia si è lavorato, mi pare anche nella Corea del Sud, introducendo delle forme di di apprendimento e anche della formazione per gli insegnanti, in modo che gestissero in modo adeguato questo tipo di iniziative. E insomma, in generale c'è una attenzione al fatto che la chiusura delle scuole rappresenta un problema importante per le famiglie, ma sicuramente in modo specifico per le donne, soprattutto nei contesti in cui ci sono squilibri rilevanti. Sì, la voce che state ascoltando è quella della professoressa Barbara Poggio, Università di Trento, prorettrice alle politiche di equità e diversità dell'università stessa, un'ascoltatrice. Forse già le donne dovrebbero curare in maniera omogenea figli e figlie, sarebbe già qualcosa. Io ho due femmine, scrive, ma se avessi avuto maschi non mi ci sarei approcciata in modo diverso. Mentalità, dovremmo riflettere molto su questo. Se intuisco bene e comprendo bene il messaggio dell'ascoltatrice, lo riconduce anche un problema culturale, ma soprattutto di educazione, cioè educare i figli forse fin dall'inizio alla parità di genere. È solamente un problema culturale, professoressa Poggio, perché se così fosse, forse non è così difficile da risolvere, con adeguati strumenti nel lungo termine, evidentemente. È un problema strutturale, abbiamo parlato anche di diversi sistemi di welfare, ma è certamente anche un problema culturale. E il fatto che sia culturale non vuol dire che sia più facile da risolvere, perché la cultura è qualcosa di profondo, di cui non sempre siamo neanche consapevoli, quindi lavorare, incidere sulla cultura è più complesso che incidere sulla struttura. Certo, questo potrebbe essere anche davvero un momento per promuovere un cambiamento culturale da tanti punti di vista. Penso gli strumenti telematici possono essere problematici, lo abbiamo visto, possono essere un peso perché appunto è difficile fare lavoro a distanza e intanto curarsi dei figli, ma possono essere anche uno strumento, se ben gestito e progettato, per ripensare anche in parte il modo di lavorare, di pensare gli orari, di pensare i modelli, no? E anche il fatto che molti padri si siano trovati a accudire i figli, certo, per una situazione di emergenza, questo può essere anche un elemento, uno stimolo a erodere lo squilibrio tradizionale, insomma, quindi può essere anche un'occasione di cambiamento culturale. Certo, ci vuole la volontà politica. E certo, e se poi la maggior parte dei politici, come abbiamo sottolineato, guarda caso, non sono donne, chiaramente è molto più difficile anche questa rivoluzione culturale. Grazie mille alla professoressa Barbara Poggio, sociologa dell'Università di Trento. Con lei abbiamo messo il grand'angolo. Mettiamo invece il teleobiettivo, Peter. Andiamo a vedere un po' come la situazione sulle strade italiane in questo giorno di quasi riapertura. E poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, se solo adesso vi siete sintonizzati. Vi ricordo comunque che dal sito radio24.it trovate tutti i podcast, potete riascoltare anche questa puntata che mi viene in qualche modo rimbrottata da un ascoltatore che dice: vorrei intervenire per la discriminazione di genere, non si sottolinea mai la violenza e i danni per l'uomo, vergognoso, vedete di correggere il tiro. Così un ascoltatore che non apprezza evidentemente il nostro interesse, la nostra attenzione per quella che è una battaglia che viene combattuta, a leggere i documenti dell'ONU da 25 anni, in alcuni casi li abbiamo sentiti dalla professoressa Poggio particolarmente virtuosi, in altri c'è ancora tanta strada da fare. Ma attenzione ascoltatrici e ascoltatori, il fatto che quest'oggi si parli di un certo argomento o di un aspetto di quell'argomento non vuol dire che si tralasci l'altro, addirittura lo si neghi. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Adesso però andiamo a New York, come preannunciato. Peraltro ieri Biden ha vinto le primarie in Kansas, voto per posta, ormai lo sapete, Biden è lui lo sfidante. Sentite che cosa ha detto giusto poche ore fa Joe Biden sul tema donne e pandemia. Le donne stanno accusando in modo particolare gli effetti devastanti della pandemia. Milioni di loro hanno perso il lavoro. Milioni sono in prima linea come professioniste del settore sanitario. La violenza domestica sta aumentando. Molte vittime sono costrette a casa con i loro carnefici. Questo virus sta colpendo tutti, senza distinzioni. Ma ci sono gruppi maggiormente colpiti. Ci sono persone più vulnerabili, comprese le donne, specie le donne di colore e quelle più povere. Questa è la perentoria dichiarazione di Joe Biden, sleepy, secondo Donald Trump, ma certo sul tema violenza e parità di genere a questo punto è sempre meno sonnecchiante, anche perché si è dovuto difendere da quelle accuse che sono piombate sulla sua campagna elettorale solo pochi giorni fa. Proviamo a, in punta di piedi a camminare sulle strade della Grande Mela, lo ripeto, anche in quelli che sono fari culturali, grandi metropoli, dove ormai certe tendenze dovrebbero essere consolidate, ai noi arrivano notizie non esattamente confortanti. Proprio qualche giorno fa leggevo un pezzo sul Venerdì di Repubblica, se non erro, firmato da Arianna Farinelli, lo ricordo, insegna scienze politiche al Baruch College della City University di New York, autrice di Gotico Americano, è una politologa, diciamo che per noi è un'attenta osservatrice di ciò che accade a New York. In questo pezzo, intanto, buongiorno Arianna Farinelli, ben ritrovata nel suo luogo lontano. In questo pezzo la professoressa Farinelli parlava di una sorellanza globale intergenerazionale e diceva: c'è bisogno degli uomini per una società più giusta e paritaria, perché gli uomini devono essere i primi femministi. Ecco, in una società in cui c'è anche un Joe Biden, un Donald Trump, una Elizabeth Warren esautorata dopo poche settimane di campagna elettorale, quanto maschilista è la società statunitense? Quanto è pronta a un cambio di paradigma, secondo lei, Farinelli? C'è ancora tantissima strada da fare. Io me ne sono resa conto quando sono arrivata in questo paese 20 anni fa. Questo è il paese dove è nata la seconda ondata di femminismo, quella degli anni 70, dove è nato il movimento per i diritti delle donne. 100 anni fa, nel 1918, le donne qui lottavano per il diritto al voto e c'era un'altra pandemia, quella dell'influenza spagnola, sì. E le donne americane rischiarono di veder cancellati i referendum per il diritto al voto, ma in quel caso il diritto passò, infatti le donne in questo paese votano da esattamente 100 anni. Perché? Perché anzitutto erano impegnate nei lavori, visto che c'era la prima guerra mondiale e gli uomini erano al fronte, e poi perché accudivano i malati, quindi come una forma di riconoscimento gli uomini votarono per dare il diritto alle donne. Ecco, 100 anni dopo ovviamente abbiamo più diritti, il divorzio, l'aborto, penso a tutto questo, ma c'è ancora tantissima strada da fare. La pandemia ha esacerbato tutte le disuguaglianze in questo paese, quelle di reddito, di accesso alla sanità, di accesso all'istruzione, quelle etniche, perché si ammalano e muoiono di più gli ispanici e gli afroamericani, e poi ovviamente quelle di genere. E Biden diceva appunto questo, che le donne hanno preso su di loro il peso della pandemia, della quarantena, perché si occupano dei figli, degli anziani, perché fanno il telelavoro, perché sono lavoratrici essenziali. In questo paese infatti il 90% delle infermiere, delle babysitter, di quelle che si occupano degli anziani sono donne. E poi perché molte hanno già perso lavoro, ci sono stati 30 milioni di disoccupati in 5 settimane di chiusura dell'economia, e perché molti di questi sono donne? Perché purtroppo le donne fanno ancora lavori meno retribuiti e lavori part time, e quindi quando c'è una grande crisi economica come questa, in cui l'economia intera si è bloccata, le donne sono più a rischio licenziamento. La fotografia che ci restituisce Arianna Farinelli da New York ancora una volta è ricca di chiaroscuri, non la trovo particolarmente vivida e colorata, mi sembra un bianco e nero che sopravvive nel 2020 non per qualche strano vezzo, una qualche nostalgia estetica, ma perché quel paradigma culturale si fa fatica a cambiare. Non ce la fece la Clinton, torno all'ambito politico, la Warren ha gettato la spugna molto presto, adesso Joe Biden, Arianna Farinelli dovrà nominare un dice, e lì potrebbe mettere il cappello ancora una volta su questo femminismo che però da qualche parte, da alcune voci si levano su Joe Biden e bollandolo un po' come un femminismo, come dire, di opportunità, no? Dopo anche le accuse che gli sono state rivolte. Cosa c'è? Il femminismo sta tornando di moda, è diventato anche una bella leva politica che nel quadro statunitense può funzionare? Allora, anzitutto dobbiamo togliere da questa parola il carico negativo che ha assunto negli ultimi decenni. Sì. Dunque, una persona è femminista quando riconosce che c'è un problema di parità tra gli uomini e donne e vuole fare qualcosa per cambiare questo. Quindi il femminismo non è soltanto una cosa che appartiene alle donne, questo lo spiego spesso all'università ai miei studenti, maschi e femmine, ma è appunto un problema della società. Adesso, Biden ha ricevuto queste accuse che gli vengono mosse da una sua ex collaboratrice, per qualcosa che è accaduto nel 1993, che lui nega e che lei invece insiste nel dire appunto che è stata molestata. E lì c'è bisogno di, ovviamente, di far chiarezza, perché è la parola di uno contro l'altra. Nel caso di Biden, lui aveva già annunciato a febbraio che avrebbe avuto una vicepresidente donna, sì, ed ha messo insieme una commissione che deciderà, che sta analizzando i profili di 12 donne diverse, anche di etnie diverse, donne bianche, donne afroamericane, donne ispaniche, e che sceglierà probabilmente prima dell'estate la vicepresidente. Ecco, noi abbiamo avuto poche donne nominate alla vicepresidenza nella storia degli Stati Uniti. Penso a Sarah Palin, penso alla italoamericana Geraldine Ferraro, che pure negli anni Ottanta dovette combattere contro il pregiudizio. In questo caso è particolarmente interessante perché Biden ha già detto che probabilmente rimarrà in carica soltanto per un mandato, quindi soltanto fino al 2024 se vince. Sì. E questo significa che la sua vice diventa poi nel 2024, sempre che Biden riesce a sconfiggere Trump in questo novembre, la sua vice diventerebbe la front runner dei democratici per le elezioni del 2024. Quelle successive. Quindi avremo una vicepresidente candidata poi alla presidenza. Un'investitura a tutti gli effetti proprio per quel cambio di paradigma di cui discutevamo prima. In questo pannello di nomi, diciamo, che si stanno ipotizzando, ho letto indiscrezioni, si parlerebbe anche di Michelle Obama, e lì sarebbe un carico da 90, direbbe qualche giocatore di carte. Arianna Farinelli, qual è il nome che potrebbe davvero dare anche un impulso a Biden per vincere la battaglia finale con Donald Trump? No, non credo che sarà Michelle, perché ha già detto che non è interessata. Però lei comunque si sta spendendo insieme al marito Barack per l'elezione di Biden. Ci sono altri nomi, per esempio c'è Stacey Adams, che è stata candidata al governatorato della Georgia e ha perso per 2 punti percentuali, purtroppo anche per il fatto che i distretti vengono disegnati in modo da favorire un partito o l'altro, quindi non è sempre veritiero quello che esce fuori dalle elezioni. Poi c'è Elizabeth Warren, che, come diceva lei, è stata candidata alle primarie democratiche, e che però si è ritirata dando comunque il suo appoggio a Biden, e lei è una senatrice del Massachusetts bianca. Sì. Poi c'è la governatrice dello stato del Michigan, che è molto invisa a Donald Trump, che la chiama That Woman from Michigan, quella donna del Michigan, ed è quella appunto che vuole tenere l'economia chiusa e contro la quale ci sono state delle proteste qualche giorno fa, addirittura con persone che sono entrate nel Parlamento dello stato del Michigan armate con armi d'assalto, con Kalashnikov. Sì, abbiamo raccontato questo incredibile episodio, esatto. Incommentabile. Ci sono questi nomi possibili e Biden dovrà sceglierli, stanno facendo questo che in inglese si chiama vetting process, quando appunto esaminano ogni profilo e scelgono la candidata migliore, quindi penso che fa un mese o due uscirà fuori il nome, quindi sapremo il ticket dei democratici che sfideranno Trump e Pence. E lì vedremo, insomma, che piega potrebbe prendere la lunga campagna, la lunga cavalcata elettorale. Grazie mille, Arianna Farinelli, scienze politiche al Brook College City University New York, autrice di Gotico Americano, edizioni Bompiani. Buona giornata e buon lavoro, Farinelli. Grazie mille. Allora, solo un sms che arriva da un ascoltatore, 349-238-6666, fa una scommessa, la accogliamo, siamo pronti eventualmente a pagare pegno. Michelle cambierà idea, volete scommettere? Io scommetto invece che Peter farà una cosa, adesso. Io prontamente rispondo ringraziando tutti voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.